Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera Luca Tedesco. Buonasera, buonasera. Luca Tedesco è fellow dell'Istituto Bruno Leoni, ricercatore in storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma III ed è responsabile scientifico di una nuova collana di libri che edita appunto dall'Istituto Bruno Leoni Libri, una collana di libri come si usa adesso in ebook, cioè libri virtuali che possono essere acquistati direi immediatamente in via elettronica e letti su quelli che vengono chiamati i device moderni, cioè gli iPad, i tablet e così via. Una collana di libri che si intitola Liberismi italiani. E come mai questa collana? Perché Liberismi italiani? Lo chiediamo ovviamente a Luca Tedesco. Grazie. Questa collana nasce da un'idea del sottoscritto e anche di altri colleghi, di altri studiosi, Giovanni Orsina, Domenico Maria Bruni, Rocco Marcello Postiglione, e nasce dall'idea di riscoprire, rivisitare filoni culturali, soprattutto di carattere economico e istituzionale, che nella storia italiana del nostro paese tra l'8 e il 900 si sono rifatti a modelli statuari anti-autoritari, quindi soprattutto diciamo al modello anglosassone. Il modello anglosassone cosa rappresentava per i nostri liberisti, per i liberisti nostrani? Rappresentava un modello che affermava il primato della società civile sullo Stato, la supremazia delle libertà individuali sullo Stato e amministrazione, e i nostri liberisti, vale a dire De Viti De Marco, Luigi Einaudi, Maffeo Pantaleoni, a questo modello anglosassone contrapponevano, criticandolo invece, il modello tedesco, lo Stato persona, lo Stato etico, che affermava invece la preminenza, la supremazia dei poteri pubblici, quindi lo Stato di diritto come ordinamento giuridico originario cui andava attribuita la sovranità. A questo modello germanico bismarchiano i liberisti nostrani invece contrapponevano il modello anglosassone, che sottolineava invece l'importanza delle libertà individuali. Ecco, i primi due titoli di questa collana sono Antonio De Viti De Marco, che lei ha citato, Dalla scienza alla lotta, e Guglielmo Ferrero, antiproibizionista. Ecco, due liberisti, diciamo così, poco conosciuti, se conosciamo tutti Luigi Einaudi e magari anche Pantaleoni, ma indubbiamente Ferrero e De Viti De Marco sono un po' passati di moda. Questo forse, nonostante tutto, meritano di essere riscoperti ora in questa fase politica? Beh sì, merito di essere riscoperti, perché De Viti De Marco e appunto Guglielmo Ferrero erano portatori di una concezione dello Stato liberale, che doveva affermare la necessità, appunto, per definirsi tale, per definirsi liberale, la necessità di adottare norme generali, norme universali. E quindi appunto De Viti De Marco e Ferrero invece rifiutavano quello Stato che adottava norme particolaristiche, che adottava atteggiamenti discrezionali, arbitrari, finalizzati diciamo a interessi di parte. Quindi lo Stato liberale sposato da De Viti De Marco e da Ferrero, insieme per l'appunto a Luigi Einaudi, insieme al primo Pantaleoni, era per l'appunto uno Stato che doveva resistere alle pressioni dei gruppi di pressione. E appunto in queste antologie che lei ha ricordato, no? Questi volumi di De Viti De Marco e di Guglielmo Ferrero sono delle antologie di scritti, antologie anche di articoli pubblicati sul Giornale degli Economisti e sui principali quotidiani di allora, sono articoli che criticavano ad esempio la politica protezionista, perché la politica protezionista era per l'appunto una politica finalizzata a soddisfare gli interessi economici di ristretti gruppi di pressione, mentre De Viti De Marco e Guglielmo Ferrero affermavano che uno Stato liberale non doveva porsi al servizio per l'appunto gli interessi di parte. E quindi questa, diciamo, loro concezione politica è una concezione politica che può risultare ancora oggi affascinante, o comunque che ancora oggi può essere esplorata, ripensata, insomma, una concezione politica su cui si può ancora, diciamo, riflettere, su cui si può ancora riflettere nell'Italia, diciamo, di oggi. E perché questo titolo di Dalla scienza alla lotta per l'antologia di De Viti De Marco? Certo, perché appunto De Viti De Marco era un grande economista, un grande studioso, il maggior teorico delle scienze delle finanze in Italia, l'iniziatore appunto di questo, del filone della scienza delle finanze. quindi grande economista, però appunto accanto a questo suo profilo, poi David De Marco fu anche un organizzatore di battaglie politiche. David De Marco fondò nel 1904 la Lega Antiprotezionista e per l'appunto sul giornale degli economisti, nelle cronache del giornale degli economisti, David De Marco affermava la necessità di intraprendere una battaglia politica. Gli articoli che io ho ripubblicato nell'antologia sono articoli che risalgono al 1898, al 1899, gli anni che vedono in Italia quello che è stato definito il tentato colpo di Stato della borghesia. Sono anni in cui la classe dirigente limita le libertà dello statuto, le libertà statutarie, ricorre ai cannoni di Bava Beccaris per rispondere ai tumulti popolari. E David De Marco appunto rispondeva dicendo: guardate classe dirigente, che insomma i tumulti che scoppiano non sono tumulti sovversivi, non sono tumulti che vogliono abbattere le istituzioni, ma sono tumulti provocati dal caro pane, provocati dagli alti prezzi dei beni di consumo popolare, che sono provocati, indotti per l'appunto dalla politica protezionista. E quindi David De Marco, come dire, cercava di tradurre nella battaglia politica, nella lotta politica, le sue, diciamo, il suo pensiero scientifico, in questo senso, è per l'appunto dalla scienza alla lotta. Ecco, economista, ma grande organizzatore anche politico, di battaglie politiche. Ecco, ricordiamo, stiamo parlando della collana Liberismi Italiani, pubblicata in ebook da IBL Libri, Istituto Bruno Leoni Libri. Stiamo parlando con Luca Tedesco. Vi ricordo che questi volumi sono disponibili al prezzo di 3,99 euro su tutti i maggiori siti, su tutti i negozi online a cui si può accedere appunto per acquistare online questi volumi. Allora, Luca Tedesco, che è curatore di questa collana, professore ricercatore di storia contemporanea all'Università di Roma, chiedo come si svilupperà, quali sono i prossimi titoli, se possiamo anticipare alcuni degli argomenti che saranno sviluppati in questa collana nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Certo, certo, la ringrazio. Allora, diciamo, nei prossimi mesi uscirà un'altra antologia, questa volta di scritti di Luigi Einaudi, un'antologia di scritti in cui Einaudi critica, si schiera contro il protezionismo siderurgico, qualificando per l'appunto i siderurgici come i trivellatori di Stato, no? L'industria siderurgica fu quell'industria che beneficiò più di altre della politica protezionista, degli alti dazi doganali, quindi uscirà a breve una silloge, un'antologia di scritti di Luigi Einaudi, e poi a seguire uscirà invece un volume sulla ricezione di Richard Cobden in Italia. Richard Cobden, chi fu l'uomo politico inglese, l'uomo politico britannico, che fondò l'Anti-Corn Law League, quindi la Lega che voleva superare la legislazione protezionista cerealicola inglese, quindi anche lui un grande protagonista del libero scambio europeo, e quindi questi sono i due volumi in uscita, uno su Luigi Einaudi e l'altro su Richard Cobden. Grazie, e allora buon lavoro a Luca Tedesco. Abbiamo parlato di questa collana Liberismi Italiani, i primi due titoli sono Guglielmo Ferrero Antiprotezionista e Antonio De Viti De Marco Dalla Scienza alla Lotta, volumi che sono acquistabili negli bookstore a 3,99 euro. Ringrazio lei e i radioascoltatori. E dopo aver parlato del liberismo ci fermiamo su un argomento che è, direi, un argomento cardine per l'economia, il denaro. E proprio denaro si intitola il libro che Felix Martin ha scritto, La storia vera, quello che il capitalismo non ha capito, edito da UTET. Felix Martin è un economista, saggista, è un economista americano, ma ha studiato per vari anni a Oxford e a Bologna e ha lavorato presso la Banca Mondiale. In questo libro racconta la storia del denaro e racconta soprattutto come il denaro sia uno strumento che nel corso degli anni, nel corso dei secoli è stato utilizzato, bene o male, ma è stato utilizzato soprattutto per delle finalità che queste finalità sono sottoposte appunto poi al giudizio della storia. Ma leggiamo una piccola parte delle conclusioni di questo libro di Felix Martin. Il denaro, come il linguaggio, è intrinsecamente sociale. È ovvio che nessuno può inventarsi il suo. Un celebre economista una volta disse che chiunque può battere la propria moneta. Il problema è farla accettare. È esattamente così. Chiunque può scrivere una cambiale se, in base alla considerazione che gli altri hanno della solvibilità e della liquidità di quelle cambiali, queste possono circolare come denaro. Ma il celebre economista dava per scontato che quelle cambiali fossero in dollari, euro, sterline o quel che vuoi. perché quello che nessuno può fare è battere moneta, non importa quanto sia solvente, in una propria unità monetaria privata. Le cambiali non avrebbero significato. Sarebbe assurdo se tu o io decidessimo in maniera unilaterale il nostro standard monetario, quanto lo era per Humpty Dumpty dire ad Alice nel celebre racconto di Lewis Carroll che le sue parole significavano ciò che lui voleva. Ora, lo Stato non è esattamente come teme, chiaro. È straordinario per estensione e influenza, e se deve averci a che fare con regolarità, come la maggior parte di noi, in una certa misura può dettare i suoi termini. Per esempio, specie se è uno Stato totalitario, può manipolare il significato delle parole. E se si tratta dello standard monetario, il peso delle cambiali del sovrano ha un effetto notevole sul loro valore e sulla misura in cui il popolo le usa. Ecco perché l'iperinflazione è invariabilmente associata al collasso del credito sovrano e della legittimità dello Stato stesso. Ma lo Stato non è la società, quindi il controllo dello Stato sullo standard non è mai completo. Se lo standard monetario, come accade con il linguaggio totalitario, si allontana così tanto dalla realtà da diventare inutile, la società può mettere in piedi un'alternativa, e lo farà. Ecco perché, quando l'inflazione va fuori controllo, nei mercati emergenti la gente comincia a rinominare i prezzi in dollari o euro, anche se di dollari o di euro non ne circolano quasi. Di tanto in tanto, come gli emettitori del credito argentino o i banchieri italiani del XVI secolo, si inventa un nuovo standard. In entrambi i casi, gli individui trovano da soli uno standard che serve allo scopo, il coordinamento della società monetaria, e che sostituisce quello che lo Stato ha reso letteralmente privo di significato. Quindi il denaro come una realtà sociale. Questa è l'idea di fondo di questo libro di Felix Martin, che, lo ricordo, si intitola Denaro, la storia vera, quello che il capitalismo non ha capito. Edito da Utet, sono 340 pagine per 17,50 euro. Un libro che parla della realtà economica nella sua prospettiva storica e nella sua prospettiva sociale. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Luca Cremonesi in redazione e Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è per settimana prossima. We'll be right back.